Allora, sono circa tre quarti d'ora che è bloccato l'incrocio tra la Cristoforo Colombo e Viale Ostiense. E abbiamo inscenato un checkpoint, siamo circa 200 e stiamo volantinando, comunicando con gli automobilisti e spiegando che questa non è una giornata ordinaria, ma straordinaria, non per noi, ma perché è arrivato il capo della guerra preventiva, cioè George Bush. In questo momento si sono schierati davanti a noi i reparti dei carabinieri e ora vedremo cosa succede, insomma. Noi continueremo per un po' a tenere il blocco e, insomma, ora vediamo.